come vorrei alzarmi senza questa nebbia davanti agli occhi questa mattina. Come vorrei vedere tutto più chiaro e respirare leggero, leggero. Ehi baby, dove sei al di là di questa soffocante nebbia? Sei anche tu prigioniera fuori dal mondo e di una fantasia se si avvera. Ascoltiamo il nostro io e liberiamoci di questa oscurità. Ascoltiamo il nostro io in cerca di una nuova realtà. Adesso lo sento, lo faccio e non mi pento. Adesso lo sento, lo faccio e non mi pento. Adesso lo sento, lo faccio e non mi pento. Adesso lo sento. Facile sai capire quello che non va e scegliere un sentiero senza complessità. Poi mi dirai se ce la fai a dirmi tutto quello che di te non sai. Ehi baby, sai cosa penso? La nostra vita potrebbe avere un senso. Non è difficile levarsi in volo se amando non ti senti solo. Ascoltiamo il nostro io in cerca di una nuova realtà. Ascoltiamo il nostro io e vivere felici in questa immensità. Adesso lo sento, lo faccio e non mi pento. Adesso lo sento, lo faccio e non mi pento. Adesso lo sento, lo faccio e non mi pento.